Aloha! Buongiorno e ben ritrovati. Oggi è lunedì e come tutti i lunedì, il vostro Chuck Bird con Early Bird Special. Tutti i giorni dalle 6 alle 7, questa è la prima colazione che serviamo qui dalle frequenze di Rock FM. Siamo partiti alla stragrande con Genesis, Dancing with the Moonlight Nights e più tardi una storia su Johnny Cash per iniziare alla grande la settimana, ma prima per voi ci sono i Deep Purple. Iniziamo veramente con il piede giusto. Speed King. Yeah! Purple, Speed King, scelta non a caso per introdurre la prima fregnaccia sulla vita delle nostre rock and roll star preferite di questa settimana. Come molti sanno, moltissimi oramai dopo la visione del film Quando l'amore brucia, Johnny Cash era piuttosto avvezzo all'abuso di parecchie droghe, principalmente anfetamine, che in gergo vengono anche chiamate speed. Mischiate con l'alcol procuravano a Johnny Cash sbalzi di umore, crisi e allucinazioni. Nel 1983, di ritorno da un tour in Inghilterra, una notte sognò, o almeno questo pensavano tutti, di essere morso a una mano da un grosso ragno. L'unica a credergli fu sua moglie June Carter, che lo portò immediatamente in ospedale. Quando arrivarono al pronto soccorso, la mano era grande il doppio del normale, completamente infetta. In tutto questo c'entrava un vero ragno e quindi non un'allucinazione da delirio tremens. A seguito di alcuni esami che gli fecero in ospedale, i medici scoprirono però una cosa ben più grave di un morso di ragno. Il suo corpo stava collassando al suo interno a causa delle sue abitudini tossiche. Nel giro di un mese gli asportarono il duodeno, parte dello stomaco e una bella porzione di intestino. Ovviamente in ospedale Johnny Cash non poteva assumere tutti i medicinali che facevano parte della sua dieta quotidiana e così di nascosto si fece portare in camera del Valium. Non sapendo dove metterlo, pensò bene di ficcarlo sotto le bende che gli coprivano la profonda ferita che i chirurghi dovettero fargli per procedere agli interventi. Beh, un giorno scoprirono che Johnny Cash non riusciva a svegliarsi. Per loro era inspiegabilmente addormentato, ma alla grossa. Solo dopo avergli tolto le bende scoprirono che tutto il Valium che aveva nascosto sotto la bendatura era stato assorbito dalla ferita e quindi entrato in circolazione tutto in una volta. Beh, quella vecchia pellaccia alla fine ne venne fuori e continuò ancora per anni a produrre grande musica. Eccolo all'Early Bird Special con la leggendaria Ring of Fire. Love is a burning thing, and it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. Fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns,

Tranquilli, qui il livello di colesterolo è al minimo. Dovete solo stare attenti a quello del rock and roll, perché qui ce n'è, e come. You, Lewis and the News, The Power of Love. Buongiorno e ben svegliati, benvenuti all'Early Bird Special. Io sono Chuck Bird e loro erano You, Lewis and the News, That's the Power of Love. Ma si continua con le emozioni forti, Sweet Emotion, Aerosmith. Eh sì, qui le emozioni devono essere dolci, mentre il caffè amaro. Amaro come la vita. Oh, chi arriva in questo momento? Oh, grazie mille, Cherie. Senza di te questa trasmissione non varrebbe nulla. Aloha, Early Bird Special. Susie and the Banshees, Cities in Dust, vuol dire città sotto la polvere, e in questo caso le città sono ancora sotto la coltre dell'alba. Questo è l'Early Bird Special, la primissima colazione ad elevato contenuto di rock and roll. Non potete sbagliarvi, la trovate solo su Rock FM. Io sono Chuck Bird, quello della tazza di caffè nero bollente e delle storielle sulla storia del rock and roll. Ma non quella con la S maiuscola, quella degli episodi dimenticati, dei concerti non ripresi dalle telecamere, degli amorazzi clandestini e degli sballi nel backstage. A proposito di grandi concerti, mi piacerebbe parlarvi del primo tour dei Clash, quello del 1977, il White Riot Tour. Beh, il tour bus attraversò l'Inghilterra come la carovana di un piccolo esercito di barbari, portando nei vari angoli del paese un'orgia di rock and roll incendiario. Piccoli furti, gozzoviglie e vandalismo. I Clash erano visti dalla maggior parte di quelli che incontravano come delle forme di vita aliena, coi capelli in piedi. Ci furono momenti memorabili, come quando il bus fu fermato dalla polizia nei dintorni di St. Albans, dopo che il direttore dell'Holiday Inn di Newcastle riferì che il gruppo aveva rubato alcune federe e la chiave di una camera. Ma la cosa più importante fu chiaramente la musica. Quando la band saliva sul palco, era quanto di meglio ci fosse mai stato nel rock and roll. Era cuore e anima, carne e sangue, totale dedizione. Al punto che scendevano dal palco completamente fradici di sudore. Non riuscivano letteralmente a parlare, tanto erano esausti. L'unica cosa che riuscivano a fare era sdraiarsi sul pavimento dei camerini. E naturalmente proprio ora, all'Early Bird Special, ho il piacere di farvi ascoltare proprio i Clash. Should I stay or should I go? Dovrei stare oppure andare? Una domanda che penso si stiano ponendo molti passerottini all'ascolto, quelli ancora alle prese con tiepide lenzuola e accoglienti coperte. Should I stay or should I go? Quindi, The Clash all'Early Bird Special. To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? Decisions bugging me. Decision they molest. If you don't want me, set me free. Set me, yes, me. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Best rock and roll station in the world. It's Rock FM. You know I smoked a lot of grass. Oh Lord, I popped a lot of pills. But I've never touched nothing that my spirit could kill. You know I've seen a lot of people walking around with tombstones in their eyes. But the butcher don't care. Oh, if you live or if you die. God damn the pusher. Pusher. I said, God damn. Pusherman, il vostro pusher di rock and roll favorito. Già dalle 6 alle 7 del mattino. Questo è l'Early Bird Special. Io sono Chuck Bird. Loro erano Steppenwolf. E questi? Questi sono The Beatles. The Long and Winding Road. The Long and Winding Road. Disappear. I've seen that road before. It always leads me here. Lead me to your door. The wild and windy Beatles, la migliore musica la potete ascoltare qui, a Rock FM, anche dalle 6 alle 7 del mattino, perché qui c'è Chuck Bird all'Early Bird Special. Sono estremamente lusingato dal fatto che moltissimi passerottini e passerottine prendono il loro computer già a quest'ora e mandano le loro email qui a bird@radiorockfm.com raccontandomi anche le loro storie di rock and roll. Questa è incredibile, vi ringrazio di cuore. E con me c'è anche la Cherie che vi dice grazie, perché è lei che gestisce la mia casella di posta elettronica. Ragazzi, questa è l'ultima proposta musicale per l'Early Bird Special, ma tranquilli, dopo di me ci sarà ancora tantissimo rock and roll 24 ore su 24. Questa è Rock FM. Nirvana, Come As You Are. As you were, as Lunedì è sicuramente il giorno più duro della settimana, ma mi sembra che l'abbiamo superato brillantemente, perlomeno siamo arrivati alle 7 sani e salvi. Chuck Bird vi ringrazia per l'ascolto e vi lascia con i rimanenti programmi qui da Rock FM nell'immantinente. Il pane, burro e rock and roll, gestito dall'Ariele, l'apostrofo Ariele, e Freak Anthony. Da Chuck Bird è tutto, ci risentiamo domani mattina alle 6. Aloha!